Parliamo anche oggi del Premio Internazionale di Poesia Religiosa San Sabino. Negli scorsi giorni abbiamo ospitato il segretario generale del comitato organizzatore Enzo Ramazzina. Il direttore artistico, così leggo nella brochure del comitato, è Don Giulio Osto. Ben ritrovato, Don Giulio. Buona giornata. Parola e mistero, dunque, il cappello che sta sopra a questo premio, nona edizione, un premio biennale. Allora sviluppiamo questa coppia di parole. Sì, ecco, parole mistero è appunto il titolo che vuole indicare un po' la cornice generale di questo concorso. Promuovere la poesia religiosa, la poesia come occhi sul mistero, come parole che si affacciano alla dimensione del mistero, come quella dimensione inesauribile della vita umana, dell'esperienza umana, dell'esperienza religiosa, della fede cristiana anche, ma anche proprio dell'umano così com'è. È una coppia che messa insieme genera molte vibrazioni, perché quella E che congiunge parola e mistero vuole essere proprio il luogo che i poeti, gli scrittori possono abitare e aiutare tutti noi a scoprire, a esplorare nelle molteplici dimensioni. E stiamo celebrando sia quest'anno sia l'anno scorso un importante anniversario poetico, che è quello di David Maria Turoldo. E nel 2016 abbiamo ricordato il centenario della nascita, poiché David Maria Turoldo è nato a Sedegliano nel Friuli nel 1916, e invece quest'anno, nel 2017, ricordiamo i 25 anni della morte, appunto nel 1992. E David Maria Turoldo è proprio una voce assai significativa nel quale si incontrano in modo straordinario, ecco, questa coppia di termini, di riferimenti, parola e mistero. Ecco, cito magari per qualcuno che frequenta la chiesa, forse il testo più famoso che in chiesa viene usato di Turoldo è la sua traduzione del Salmo 22, il Signore è il mio pastore, che poi è diventato un canto, insomma, spesso associato ai funerali o ad altre celebrazioni, ma insomma le parole di Turoldo e la traduzione di quel salmo sono le sue. Ma Turoldo non è solo questo, evidentemente. Certo, per esempio l'esperienza della traduzione dei salmi operata da padre Turoldo in quel tempo, insieme poi con il biblista Gianfranco Ravasi e anche con la partecipazione del famoso maestro Giuseppe De Marzi, forse sono state una delle esperienze più significative che ha visto mettere assieme, ecco, mondi diversi, la musica, la Bibbia e la poesia, con dei risultati che possiamo ancora oggi apprezzare. Ecco, Turoldo appunto è una voce significativa del Novecento e ha un rapporto molto lungo con la poesia e anche con la promozione della poesia, poiché è legato al premio di poesia Campo San Piero, ecco, che ha presieduto dal 1982 al 1990, e il premio San Sabino ha voluto proprio anche in questo senso creare un gemellaggio con quest'altra importante iniziativa rivolta però alla poesia edita, mentre il premio San Sabino si rivolge a e vuole promuovere componimenti inediti. Ecco, Turoldo ha sondato con la sua poetica tante sfaccettature del mistero. Le sue parole sono parole poetiche che si affacciano davanti a tanti misteri, certamente ad esempio il mistero del crocifisso, ma anche il mistero della malattia negli ultimi suoi anni di vita, ma anche il mistero della storia, poiché la parola di Turoldo e anche la sua azione, la sua predicazione ha sempre voluto far incontrare, ecco, il Vangelo con la storia. Era, come per chi l'ha conosciuto, l'ha addirittura ascoltato o anche letto, ecco, sa che le sue parole certamente non lasciano mai indifferenti. Ecco, e quindi è bello ricordare un poeta religioso del Novecento che sicuramente ha qualcosa da dire. Ma vorrei subito lasciare la parola proprio a Turoldo, leggendo una tra le sue tante poesie in una bellissima raccolta che ne raccoglie molte, che si intitola O sensi miei, poesie dal 1948 al 1988, per dire, ecco, la vasta produzione di padre Turoldo, che era un frate dei Servi di Maria. Ecco, per dire in questo caso la poesia è molto semplice, elementare, allo stesso tempo però dà una forte carica profetica e un messaggio molto forte a noi che la leggiamo, la ascoltiamo. Canta il sogno del mondo. Ama, saluta la gente, dona, perdona, ama ancora e saluta. Nessuno saluta del condominio, ma neppure per via. Dai la mano, aiuta, comprendi, dimentica e ricorda solo il bene. E del bene degli altri godi e fai godere. Godi del nulla che hai, del poco che basta, giorno dopo giorno. Eppure quel poco, se necessario, dividi. E vai, vai leggero dietro il vento e il sole e canta. Vai di paese in paese e saluta, saluta tutti, il nero, l'olivastro e perfino il bianco. Canta il sogno del mondo, che tutti i paesi si contendano d'averti generato. Ecco, in questa poesia vediamo, sentiamo una carica profetica, un invito, un imperativo, un invito all'azione, nella semplicità ma anche nella densità di queste parole. Certamente poi Turoldo arriva in altri componimenti a toccare delle vette teologiche, per cui negli ultimi anni ci sono state anche delle ricerche da un punto di vista, ecco, contenutistico sulla sua poetica. E ad esempio il titolo che dà a questa raccolta, a questa antologia complessiva, appunto O sensi miei, dice anche proprio questa comprensione del dialogo tra l'uomo e Dio. Vieni tu a suonare i divini sensi, questo è il verso che dà il titolo a questa antologia. E questo è un assaggio anche di poesia, insomma, da un nome importante che è quello di padre David Maria Turoldo. Don Giulio, appunto, sarà con noi anche nelle prossime settimane per sviluppare ulteriori approfondimenti in vista di questo premio San Sabino. Ricordo, parrocchiatorreglia.it, sezione premio poesia San Sabino, sono tutti i dettagli per la partecipazione entro il 31 di marzo, un premio internazionale, appunto, possono partecipare anche i giovani tra i 18 e i 30 anni. Grazie Don Giulio, alla prossima settimana. Grazie a voi.